1, 2, 3. Adesso, tra poco, ci sarà Alessandro Milan che leggerà i giornali in un modo che nessun altro al mondo li sa leggere. 24 mattino. L'Italia si desta. Sono le 7:16 minuti, siamo qui cari ascoltatori con la rassegna stampa, con i giornali da leggere per voi. Vi ricordo anche gli ospiti. Oggi è il cosiddetto Restitution Day, per cui il Movimento 5 Stelle restituirà una cifra sopra il 1,5 milioni, credo, di euro. Sono le diarie, la parte dello stipendio dei parlamentari. Avremo con noi alle 8:15 il capogruppo al Senato del Movimento 5 Stelle, Nicola Morra, e il senatore Morra, per spiegarci che cosa faranno dunque oggi. E poi torneremo sulla vicenda del cosiddetto metodo Stamina. Avremo con noi Davide Vannoni, il padre di questo metodo, che lui giura essere curativo per malattie degenerative, che è stato duramente attaccato dalla rivista scientifica Nature a dire è un metodo plagiato, è un metodo per il quale tra l'altro l'Italia spenderà 3 milioni per la sperimentazione, è un metodo assolutamente fasullo, e quindi ora lui si deve difendere dalle accuse di essere un impostore. Sarà ai nostri microfoni Davide Vannoni a rispondere alle nostre domande. Questa è alle 8:30, ora andiamo a leggere appunto i giornali in edicola. È giovedì 4 luglio, i titoli, il Sole 24 Ore apre sulla flessibilità dei conti stabilita dall'Unione Europea per i paesi virtuosi, il titolo di prima pagina: UE, più flessibilità sui conti italiani. E poi è l'Egitto, la situazione davvero drammatica, il colpo di stato militare che tiene banco su tutti gli altri quotidiani. Per il Corriere della Sera: l'esercito prende il comando dell'Egitto, questo è il titolo di apertura. Repubblica: Morsi deposto, l'esercito al potere. La Stampa: golpe in Egitto, deposto Morsi. Il Fatto Quotidiano: Egitto, militari nelle strade, Morsi agli arresti, rischio di guerra civile. Il Messaggero: Egitto, il golpe dei militari. Per il Secolo XIX, il golpe della piazza. L'Unità: l'Egitto nelle mani dei militari. Il Manifesto: il colpo della Sfinge. E Avvenire: i militari riprendono l'Egitto. Come vedete, molti dei quotidiani aprono su questo. Invece il Giornale mette insieme la vicenda Italia-Egitto, golpe e golpetti. In Egitto colpo di Stato, in Italia i militari licenziano il Parlamento sugli F-35. Mentre Libero: una nomina al giorno, poltronificio letto. Questo è il titolo di prima pagina. Vabbè, ma cari ascoltatori, da dove pensate che possa iniziare oggi? Oggi, giovedì 4 luglio, in pieno corso la nona settimana decisiva per l'abolizione delle province. Da dove vuole che si possa iniziare la lettura dei giornali? Beh, dalla decisione della Corte Costituzionale ieri di respingere il decreto che aveva voluto il governo Monti per riaccorpare le province. La consulta salva le province. Ah, già questo titolo che troviamo a pagina 9 del Sole 24 Ore è acqua fresca, no? È la classica notizia che vi fa tenere le mani strettissime sul volante, mani sul volante ben strette, perché sennò vi arrabbiate, io lo so. È illegittima la riforma perché, in attesa delle motivazioni, è stato usato lo strumento del decreto legge. Il decreto legge va usato solo per carattere d'urgenza e non si cambia, invece così non si modificano le province che sono sancite in Costituzione con un decreto legge, no? Tutto giusto, tutto sacrosanto, tutto come sempre, nulla cambia. La consulta ha deciso questo, ma sentite il ministro Delrio, intervistato da Repubblica, pagina 13, Francesco Bei: noi siamo determinatissimi ad andare avanti, ne ho parlato col presidente Letta, la riforma degli enti locali e la cancellazione delle province si farà, i cittadini devono stare tranquilli, eh? Siete tranquilli, tranquilli. Il ministro Delrio dice che la cancellazione delle province si farà, magari non nella nona attuale settimana decisiva per la cancellazione delle province, magari nella decima, magari nell'undicesima, tutt'al più nella dodicesima, ma la cancellazione delle province, cari cittadini, ci sarà. Lo stesso Del Rio dice: effettivamente il decreto è uno strumento improprio, il decreto legge, come è stato usato dal governo Monti, interverremo in altro modo. C'è un commento, e tutti i giornali fanno commenti su questo, Francesco Merlo in prima pagina di Repubblica: perché le province non muoiono mai? Scrive Merlo: la provincia è come la coda della lucertola, quando la tagli ricresce, nessuno è mai riuscito a abolirla, è uno degli impossibili della politica italiana, come la riforma della RAI. L'ente inutile degli stipendi inventati, del nascondimento della disoccupazione clientele, la piccola patria degli usceri, il centro di spesa del keynesismo straccione ha questa misteriosa facoltà di resurrezione, che è garantita dalla Corte Costituzionale, e certo la Consulta avrà le sue ragioni formali a bocciare lo strumento del decreto legge utilizzato senza la straordinaria necessità e urgenza, ma è paradossale che la controversia su una forma, di cui si fa abitualmente abuso, sia più forte della sostanza politica, del buon senso, dell'emergenza economica, della volontà del Parlamento e della volontà popolare. Ecco, questo è l'incipit dell'articolo commento di Francesco Merlo. Anche Sergio Rizzo, che ieri proprio qui ai nostri microfoni commentava con noi il paese bloccato dove non succede nulla, e eccolo lì, il paese bloccato oggi, scrive Sergio Rizzo, il diario di un paese alla paralisi in prima pagina del Corriere della Sera, prendendo spunto proprio dal fatto che sul taglio delle province la Corte Costituzionale dice no. Invece la Corte Costituzionale ha detto sì al taglio dei tribunalini, ne abbiamo parlato anche ieri, il tribunale di Chiavari non si è salvato, i tribunalini, tutti respinti i ricorsi dei tribunalini che avevano fatto ricorso contro la riorganizzazione, si è salvato solo Urbino. E tra l'altro è interessante Claudia Fusani sull'Unità, pagina 10, decreti del 700, t-shirt, confetti, tutti i trucchi per salvare i tribunali, ne hanno provate tutti, ad Alba, Mondovì, Saluzzo, ci hanno provato con decreti conteali del 700, le pergamene della contea che all'epoca avevano istituito i tribunali. L'onorevole adesso senatrice Paola Pelino ha inondato coi migliori confetti della ditta di famiglia gli uffici del ministero di Via Arenula pur di salvare il tribunale della sua Sulmona in quel di Abruzzo. Il senatore Gasparri non passa giorno senza provarci a difendere le buone ragioni della sopravvivenza del tribunale di Rossano in Calabria. È una battaglia quasi commovente di nervi, di cuore, di voti. Non solo Rossano ha un suo storico bacino, ma c'è anche di mezzo la dignità, visto che la collega Iole Santelli è invece riuscita nell'impresa di sottrarre alle forbici il tribunale di Paola, sempre in Calabria. Il governatore del Friuli Serracchiani ha perorato la causa della salvezza del tribunale di Tolmezzo e il ministro Orlando ha fatto il possibile per il tribunale di Chiavari. Tutte battaglie perse. Dunque, tutti respinti. Si è salvato solo il tribunale di Urbino perché è capoluogo di provincia e siamo sempre lì, il cerchio si chiude, come diceva quel tale famoso, ci sarà un giudice a Urbino. E, tra l'altro, per chiudere le notizie mani sul volante, che dire del gran classico che è successo alla regione Campania, l'accusa di, quindi da province ci spostiamo alle regioni che sono il vero spreco, diciamo la verità, il vero buco dove si sono buttati milioni di euro. Cosa è successo alla regione Campania? Solite accuse, per carità, siamo alle accuse, tutte da provare. Peculato, tradotto vuol dire i consiglieri della Campania, molti secondo la procura, hanno usato soldi nostri per spese e affari loro. E che spese? Eccole lì, tutte messe in fila sui giornali: cene, gioielli, porcellane e giocattoli, le spese pazze della regione Campania, una intera pagina a firma Concita Sannino su Repubblica, pagina 23. E cosa c'è? Cosa c'è? E cosa c'è? Il chewing gum. Un corno d'avorio si sono comprati, spese, bar, pasticcerie, cene, un gran classico, enoteche, una Barbie, centinaia di bombole del gas, prodotti di igiene personale, tra cui una tintura da capelli per uomo da 3 euro, 3.400 euro in giornali, 3.000 euro alla manifestazione Big Fish a Salerno, 1.900 euro di prodotti di gioielleria, 500 euro di porcellane e quadri, un necrologio, il necrologio si sono comprati con i soldi nostri. E poi ancora che cosa? Cialde da caffè, generi alimentari, quando se magna sempre, comunicazione, 14.000 euro dati a TV locali, enoteche, bar, trattorie, Vabbè, solite cose. Il Fatto Quotidiano, caffè e tinture, le spese folli della campagna. Il Messaggero, conti del bar e tinture nei rimborsi dei consiglieri. 57 indagati. Succede questo. Succede anche nell'impazzimento dei conti. Questa è una cosa curiosa invece, che è successa alla Camera, come racconta il Messaggero a pagina 10. Per 3 mesi il deputato Claudio Fava di SEL si è visto accreditare un doppio stipendio. Che dice, ma come un doppio stipendio? Perché sì, le hanno accreditato anche lo stipendio dell'omonimo Gianni Fava della Lega. E al che Claudio Fava dice, la Camera si sbaglia, Fava per 3 mesi doppia diaria, pure quella del suo omonimo. E dice, ma quando mi è arrivato ho detto, ma mi sembra un po' strano, mi sembra un po' alto. E Gianni Fava invece non se n'è accorto, il leghista, perché dice, ma sì, ma io il conto corrente di Roma non lo guardo neanche, sono un romantico, vivo d'amore e poi ho altre entrate, ma non sono ricco. Vabbè, poi dopo 3 mesi tutto è stato risolto, hanno liquidato, hanno tolto i soldi a uno, li hanno dati all'altro. Vabbè, almeno questa in Parlamento l'hanno risolta. Andiamo alle informazioni su pubblicità e meteo, poi rientriamo. Ed ecco Alessandro Milan che legge i giornali come nessuno al mondo sa leggerli. Allora, alle 7:33 minuti, buone notizie dall'Europa. Questa è l'apertura del Sole 24 Ore, è il tema affrontato da vari giornali e vale a dire che cosa? Ci sono più margini concessi all'Italia, ai paesi virtuosi, sui conti pubblici da parte di Bruxelles. Per carità, non c'è assolutamente la possibilità di sforare il rapporto deficit-PIL del 3%, questo no. Però l'Italia potrà portare il deficit 2014 al 2,4 al 2,9%, si sblocca una cifra, un tesoretto di miliardi sui quali ci sono un balletto di cifre un po' sui giornali, adesso lo vedremo, giornale che vai, cifra che trovi. Per il Sole 24 Ore si liberano 7 miliardi per investire, pagina 2, Dino Pesole. Il cambio di marcia in Europa, di cui parla il ministro Saccomanni, può valere per noi tra 7 e 8 miliardi da mettere in campo nel 2014 sul fronte investimenti pubblici produttivi. La condizione, già prevista dalla decisione di decretare l'uscita del nostro paese dalla procedura di infrazione, è che non si superi l'asticella del 3% nel rapporto deficit-PIL. Non è dunque la golden rule, ma un riconoscimento di ulteriori margini di flessibilità sui conti pubblici da concedere esclusivamente ai paesi virtuosi, come ha detto il presidente della Commissione José Manuel Barroso. E scrive e specifica il Sole come si determina l'effetto espansivo che può valere 7-8 miliardi. Beh, poiché nel 2014, stando alle previsioni più aggiornate, il nostro deficit nominale, dunque senza considerare gli effetti del ciclo economico, dovrebbe attestarsi nei dintorni del 2-3% del PIL, si apre sulla carta un margine di circa lo 0,5 in più che consentirà comunque di non superare il tetto del 3%. Se aumenterà il deficit nominale, non potrà che esservi un effetto sul deficit strutturale. La novità è che non ci verrà chiesto, per effetto di questo margine in più di flessibilità, di rispettare alla lettera il timing per raggiungere la posizione concordata di close to balance, cioè vicino all'equilibrio. E quindi più margini all'Italia sui conti pubblici, e come racconta poi nei dettagli a pagina 3 Beda Romano, in realtà Olli Rehn, il commissario, ha spedito una lettera per mettere una serie di paletti, il deficit entro il tetto di Maastricht, la riduzione costante del debito per poter deviare temporaneamente dai target, insomma non è che vuol dire che questo possiamo fare quello che ci pare, diciamo che abbiamo una maggiore flessibilità nel non rispettare il timing sui conti pubblici e quindi questo libera alcuni miliardi. Ecco, sui miliardi c'è appunto questo giallo della cifra, tra i 7-8 miliardi dice il Sole 24 Ore. Ci sono poi una serie di interviste, per esempio il ministro Moavero, ministro per gli affari europei, intervistato dal Messaggero a pagina 5 da Osvaldo De Paolini, dice sbloccati 15 miliardi, molto molto più ottimista. 15 miliardi sbloccati, adesso il paese potrà ripartire. anticipa così l'entità totale degli investimenti aggiuntivi. Dunque, aggiungo che trattandosi di spesa in confidenziamento, agli 7-8 miliardi della spesa aggiuntiva vanno aggiunti grosso modo altrettanti a valere sul bilancio europeo. Alla fine potrà quindi l'Italia contare su investimenti aggiuntivi per circa 15 miliardi, ecco perché il calcolo del ministro Moavero. Mentre un po' più prudente è il ministro Carlo Trigilia della coesione territoriale, intervistato dalla Stampa, pagina 7, Raffaello Masci: con le nuove regole europee 6 miliardi in più per la crescita. Nel 2014 andranno a infrastrutture e politiche del lavoro, così il ministro Trigilia dice. Dunque 6 miliardi da parte, alcune regioni del sud hanno trovato più difficoltà di altre, per questo contiamo di riformare anche le modalità di accesso ai fondi strutturali. 6 miliardi nel 2014 da investire in che cosa? Dice Trigilia: nostro intendimento puntare su due filoni principali di interventi, le opere infrastrutturali che potrebbero dare un'importante ricaduta occupazionale in tempi brevi e le politiche del lavoro e delle inclusioni sociali. E per le imprese, quando parlavo di politiche del lavoro, dice Trigilia, intendevo anche interventi per le imprese che questo lavoro devono dare, per esempio per i servizi alle imprese, ma anche per il fondo di garanzia che consentirebbe di allargare le strettoie dell'accesso al credito. L'economista Fortis, intervistato dal quotidiano nazionale: siamo virtuosi, ci rispettiamo, se rispettiamo le regole ora ci portiamo a casa 8 miliardi. Insomma, avete capito, tra i 6, 7, 8 secondo il volano del ministro Moavero, fino a 15 miliardi. Già, ma adesso allora si potrà anche pensare di tagliare la spesa pubblica? Non subito. Il ministro Saccomanni ieri in audizione alle Camere ha detto non subito. Ci sono nel brevissimo termine margini molto limitati sul taglio della spesa. Diverse voci di bilancio in questa fase dell'anno risultano incomprimibili. Non è la prima volta che usate questo termine, incomprimibili. Evidentemente c'è molti italiani, ma che però fanno i conti della serva in maniera molto più grezza, non sono certo persone che sono addentro ai ministeri, dicono: ma come, si può tagliare questo, si può tagliare quest'altro, si può tagliare quest'altro? Oggi Panorama in copertina mette: ecco qui dove si può tagliare, sulla scuola, difesa, welfare, la cancelleria, le cancellerie, i prodotti di cancelleria negli uffici pubblici, si può tagliare varie cose. E evidentemente no, in questo periodo dell'anno, poi dove sono stati fatti tutti i bilanci e i conti già contando di avere delle entrate, evidentemente per il ministro Saccomanni non si può tagliare la spesa pubblica. Alcune e molte delle voci sono incomprimibili. Questo è il termine che ha usato, e non per la prima volta. La politica invece, vabbè, c'è il solito balletto veramente stantio sulle regole del PD, per il PD, per fare una roba da mal di testa. Fassina oggi sul Manifesto fa l'ennesima stoccata a Renzi, gli dice: sapete che c'è? Le regole per nominare il segretario del PD o le primarie del PD, non so neanche su che cosa sono le regole, non mi interessa nulla. Detto, le scriva Renzi nel suo blog. Insomma, siamo a questi livelli, no? di dialettica politica. Berlusconi è sempre in silenzio e non si capisce che si fa come Forza Italia o no. Mentre la decisione politica più interessante, almeno dai giornali, è quella che vede sempre gli F-35, l'acquisto dei cacciabombardieri. Il Consiglio Supremo di Difesa, che è presieduto per legge dal capo dello Stato Giorgio Napolitano, ha deciso ieri sugli F-35, decide il governo e no a veti del Parlamento. Nessuno intende scavalcare o peggio esautorare le Camere, scrive il Corriere con Marzio Breda, pagina 10. Il Parlamento, essendo sovrano, ha certo la prerogativa di sindacare, esprimersi liberamente, ma quando si è di fronte a decisioni operative e provvedimenti tecnici, le scelte ultime spettano a Palazzo Chigi. Ecco, tuona il Fatto Quotidiano, un golpe, F-35, Napolitano espropria il Parlamento. Tuona il Giornale, golpe in Egitto, golpetto in Italia, con Napolitano che dice sugli F-35 il Parlamento non decida. Ieri, se ricordate, abbiamo parlato dell'Italia bloccata, l'Italia paralizzata. Beh, la questione delle province è uno degli emblemi. E si ironizzava, o meglio, non si ironizzava tanto, si chiedeva in maniera specifica, lo hanno fatto alcuni professori con una mozione, a chiedere: ma i saggi, i 35 saggi, più 7 scribi, più un uomo di coordinamento tra il Parlamento e i saggi, che fanno? Il lunedì si incontrano, di che discutono? E Rodotà, Zagrebelsky e altri professori hanno fatto proprio un appello pubblico a dire: ma cosa fanno? Cioè, ce lo fanno sapere? Allora oggi il Corriere con Tommaso L'Abate va a pagina 11. Eccolo qui, un articolo spassosissimo, diciamo così. Il lunedì dei saggi, ci ascoltiamo tanto. Questo è il titolo. La colonnina di Mercurio ha sfondato quota 30 gradi. Ad agosto andremo un po' in vacanza anche noi, come tutti. Ma lei vuol sapere cosa succede alle riunioni dei saggi? Così dice il professor Beniamino Caravita di Toritto, costituzionalista, professore alla Sapienza di Roma, uno dei 35 saggi. Succede, sentite, udite bene, cari italiani, succede a queste riunioni che noi tutti si sta costruendo un linguaggio comune. Io ascolto Nida, Onida ascolta me, io e lui ascoltiamo il professor Mirabelli, tutti noi ascoltiamo la bravissima collega Carlassare. Ci ascoltiamo a vicenda, discutiamo anche per ore, non c'è nulla di più bello. Pensi che ci siamo dati la regola di non scrivere per ora documenti. Ascoltiamo. E allora voi immaginatevi i saggi che si ascoltano, parlano per ore, si ascoltano. In realtà, scrive Tommaso L'Abate, ci sono anche 7 redattori. Sono i famosi scribi, soprannominati da me. E tra l'altro un altro saggio, il professor D'Onofrio, mi stupisco che uno come Zagrebelsky firmi un appello in cui chieda la verità sui nostri lavori. Ma mica abbiamo un potere di deliberare. Quello spetta al Parlamento. Cioè, come dire, noi non decidiamo nulla di concreto, poi deciderà il Parlamento. Il lunedì dei saggi, ci ascoltiamo. Oh, devo aprire una parentesi. Noi ieri qui alla redazione di 24 Mattino abbiamo contattato il professor Caravita e gli altri due professori che hanno patrocinato, sono saggi il lunedì, decidono anche sulla forse abolizione delle province, e poi il martedì hanno patrocinato la difesa delle regioni e quindi delle province alla Corte Costituzionale, ma hanno deciso di non dire nulla, come anche il presidente della Corte d'Appello di Bari, che è l'uomo di raccordo, nominato come raccordo tra i saggi e il Parlamento, non preferisce non intervenire pubblicamente. Sono scelte che rispettiamo, anche se capiamo poco. Comunque, cosa fanno il lunedì i saggi? Si ascoltano per ore. Per ora neanche scrivono, anche perché ci sono gli scribi per loro. A proposito di paese bloccato, ma non tutto. Questo almeno è l'accusa di Libero. In prima pagina, Letta da record, regala un posto al giorno. 67 giorni di governo, 74 nomine. L'ultima è quella che verrà ratificata in maniera definitiva oggi, vale a dire l'ex capo della polizia e l'ex capo dei servizi segreti Gianni De Gennaro, nominato presidente di Finmeccanica. Questo lo trovate anche tutti i dettagli sul Sole 24 Ore, pagina 19, anche con lo storcimento di naso di alcuni, del PD soprattutto. Alcuni del Movimento 5 Stelle dicono: ma come, è De Gennaro capo della polizia, la vicenda Diaz del G8 di Genova. Gianni Dragoni, l'ex capo della polizia Gianni De Gennaro, arriva in Finmeccanica come presidente di peso, candidatura ufficializzata ieri dal Ministero dell'Economia con un comunicato, sottoposta stamattina al voto dell'Assemblea degli azionisti. Alessandro Pansa rimane amministratore delegato, carica che gli è stata conferita d'urgenza il 13 febbraio dopo l'arresto del predecessore Orsi per corruzione internazionale, ma l'arrivo di De Gennaro, poliziotto con relazioni influenti nelle istituzioni negli Stati Uniti, il settore chiave per l'industria della difesa e molte alleanze di Finmeccanica, comporta un riequilibrio al vertice del gruppo. Tutto quello che comporta questa nomina, con i dettagli appunto Gianni Dragoni a pagina 19 del Sole 24 Ore, l'accusa di Libero è questa: Letta da record regala un posto al giorno. Rinviano tutte le scelte più importanti ma in fatto di incarichi va come un treno. Nessun altro premier può vantare la velocità di questo nella distribuzione di poltrone. Ne ha assegnate più di 70 ben pagate in quasi 2 mesi. Poltronificio Letta, dai direttori politiche attive del lavoro. Ci sono tutti, tutti 74 nomi, anche in una pagina stanno tutti in corpo, piccolissimo, piccolissimo. Se siete miopi non ce la fate, avete bisogno di una lente di ingrandimento per leggerli a pagina 3 di Libero. Ora è il momento del traffico. Alessandro Milan, il panettiere dell'informazione. Già, ma chi vincerà oggi il premio La Carta Costa per l'articolo più inutile scovato sui giornali? Tra poco ve lo dirò. Intanto andiamo all'attualità internazionale, su cui si concentrerà anche Simone Spezia alle 9 per il secondo giorno consecutivo, sull'Egitto. Beh, in Egitto sta succedendo davvero... Che cosa è successo? Beh, un colpo di Stato vero e proprio, cioè i militari hanno esautorato il presidente Morsi, che era stato regolarmente eletto. Militari appoggiati anche da una rivolta popolare, Piazza Tahrir, le avete viste le immagini, esplode proprio di gioia e esplode anche di presenza umana, di persone. E tra l'altro ci sono anche molti articoli, tra poco lo vedremo, su quello che è successo, non davvero anche increscioso all'interno di Piazza Tahrir. Egitto, l'esercito caccia Morsi, l'analisi di Alberto Negri sul Sole 24 Ore. Interessante come sempre, davanti al dilemma se appoggiare un presidente eletto democraticamente ma contestato in piazza da una folla oceanica, gli americani hanno scelto i militari. Al di là delle dichiarazioni diplomatiche del Dipartimento di Stato, che auspica una soluzione pacifica e sostiene di non sapere se è in corso un golpe, questo non è un colpo di Stato classico, piuttosto un golpe con sfumature di grigio. La realtà, scrive Negri, è che Washington e i generali del Cairo sono legati da un filo rosso. Chiunque sia il presidente, da Sadat a Mubarak a Morsi, l'America ogni anno elargisce alle forze armate egiziane un contributo da 1,4 miliardi di dollari, una sorta di assicurazione contro ogni possibile rivolgimento. Questo generoso contributo costituisce anche uno dei maggiori mezzi di pressione di Washington sugli sviluppi politici egiziani. Che succederà ora? Beh, molti sono abituati a ragionare in Italia, soprattutto siamo molto ignoranti, me compreso, della politica estera in termini di bianco nero, buoni o cattivi, no? Allora molti dicono: sono andati via i cattivi, arrivano i buoni. Beh, leggetevi il profilo che Cecilia Zecchinelli regala del ministro della difesa, colui che ieri ha destituito col discorso ufficiale il presidente Morsi, Abdel Fattah al-Sisi, capo di stato maggiore dell'esercito. I misteri del generale che ha sedotto la piazza col suo carisma soft, uno che un anno fa era totalmente dalla parte di Morsi e dei fratelli musulmani, uno che di recente aveva difeso nell'aprile 2012 gli infami test di verginità imposti dai soldati a un gruppo di dimostranti donne arrestate a Tahrir. Disse allora al Sisi: l'ho fatto per proteggere le ragazze da stupri e i militari da denunce di stupro, disse sollevando un giusto putiferio. Ecco, è colui che ieri ha proclamato Morsi è decaduto del capo di stato maggiore dell'esercito, ma oggi è definito finalmente un militare moderno. Sta di fatto che chissà che succederà. Quello che invece è già successo di vergognoso ed è denunciato da Human Rights Watch e finisce oggi su tutti i giornali internazionali, anche quelli italiani, sono le violenze ai danni delle donne, stupri veri e propri avvenuti in piazza Tahrir negli ultimi giorni, almeno un centinaio. L'altra piazza Tahrir, centinaia di stupri, così titola pagina 4 Repubblica. Violenze impunite nei confronti delle donne, anche perché la presenza della polizia è nulla a piazza Tahrir, proprio per cercare di non esacerbare gli animi. In pochi giorni, scrive Eleonora Vio su Repubblica, quasi 100 abusi sessuali in piazza Tahrir contro le donne. Vengono attaccate con coltelli, bastoni, catene, sedie, denudate e spesso stuprate. Denuncia il clima di impunità in cui si svolgono le violenze. Per esempio, una giovane inglese di 25 anni era lì a fotografare. Sono stata circondata da una decina di uomini, ho provato a tenermi stretta la mano dell'amico, ma il gruppo mi ha trascinata via, urlavo, nessuno mi aiutava, altri uomini si aggiungevano ai primi, prendendomi in giro anche con falsi sorrisi. Poi mi hanno portata via in una via buia accanto alla piazza, strappandomi i vestiti e violentandomi. Insomma, non è neanche l'unico caso, sono diversi casi denunciati, stupri, la faccia sporca di Piazza della Libertà, così pagina 3 dell'Unità. Questo per dire che, insomma, bisogna sempre leggere e documentarsi prima di dire via i cattivi arrivano i buoni. In Italia noi ci occuperemo della vicenda Restitution Day. Alle 8.15 il capogruppo al Senato Nicola Morra del Movimento 5 Stelle ci spiegherà quanti soldi oggi della diaria il Movimento 5 Stelle restituirà al Parlamento e quindi a tutti noi di fatto. E poi avremo Davide Vannoni, è il controverso, a questo punto accusato di essere un cialtrone vero e proprio, usiamo questi termini molto duri, saremo anche, se volete, giornalisticamente duri con lui, che è qui per rispondere alle domande dalle 8.30, dopo le accuse di Nature, rivista scientifica, a dire il metodo Stamina, col quale lui dice possono essere curate 120 malattie, è un metodo assolutamente plagiato e non scientificamente valido. Lui si difende. Mostrerò le carte e il tema è molto interessante, ne parleremo alle 8.30. Siamo però al momento della chiusura con il premio da assegnare anche oggi, la carta costa, l'articolo più inutile scovato a mio insindacabile giudizio sui giornali, e oggi andiamo sul secolo XIX, dove Bruno Viani in un'intera pagina ci racconta i croceristi della fede a bordo vasca. E che diamine è? Parte la prima crociera della fede il 28 luglio da Genova, ospiterà 2400 ospiti, persone coordinate da Don Gianfranco Calabrese, che celebrerà tutti i giorni la Santa Messa. Tra casinò e balletti spunta il pacchetto con incontri sul credo, lo Spirito Santo e le confessioni. Si parte da Genova, si va a Marsiglia per il tema Credo in Dio, la ricerca della fede, poi a Barcellona, la Sagrada Famiglia, e poi visita a cattedrali. Perché vivere la vita di bordo non è peccato, assicura Don Gianfranco, può essere una testimonianza e una proposta. E allora eccola qui, la prima crociera della fede, parte dal 28 luglio, ma insomma, amici del secolo XIX, un po' chi se ne frega, scusate, ma soprattutto l'appello è il solito, attenzione che la carta costa. E allora è tempo di giornale radio.